libro. Allora, buonasera, benvenuti a tutti. La Biblioteca Provinciale Claudio Augusta è una piccola biblioteca ospitata al momento in questo condominio perché attendiamo fra qualche anno di traslocare nel polo bibliotecario un centro che verrà costruito a pochi metri da qui, dove le biblioteche civica Tesman e la nostra offriranno un unico servizio alla cittadinanza. Nel frattempo però ci diamo da fare, ogni settimana abbiamo una presentazione di libro, soprattutto il lunedì, e lo leghiamo a delle bibliografie, a dei temi per approfondire anche gli argomenti. Questa sera abbiamo con noi la signora Vanna De Angelis, che ringrazio e saluto anche da parte dell'assessore Tomasini, e Paolo Valente, che ci accompagna come moderatore. Vi ricordo anche l'iniziativa della prossima settimana, che vedrà con noi di nuovo Paolo Valente, avete sulla sedia l'invito. Questa biblioteca è nata nel 2001 per raccogliere e documentare, diciamo, i vari aspetti della vita di questo territorio e oltre. Quindi il territorio come territorio di confine ha delle caratteristiche particolari, sì. E non lasciatevi ingannare dagli scaffali che abbiamo spostato. In realtà noi abbiamo un patrimonio al momento di quasi 60.000 volumi catalogati, per cui se vi incuriosisce potete prendere una nostra locandina e visitare anche il nostro sito, perché i volumi che abbiamo qui sono un quarto, ecco, diciamo. Gli altri sono in un magazzino qua vicino, perché lo spazio non è più sufficiente, ecco, abbiamo dovuto trovare una soluzione alternativa. Quindi vi invito anche a guardare quello che abbiamo, che possiamo mettere a disposizione. Laddove ci fossero dei documenti che vi servono e non sono presenti tra il nostro patrimonio, noi li possiamo reperire con un servizio che si chiama prestito interbibliotecario, quindi siamo a disposizione per ogni tipo di informazione. Ecco, cedo la parola a Paolo Valente, che ringrazio. E vi ringrazio ancora di essere venuti così numerosi, grazie. Io saluto tutti. Sapete che non sono un critico letterario, ma sono qui anche in qualche modo come persona informata sui fatti, diciamo così. Bruno De Angelis è un nome che chi conosce la storia dell'Alto Adige ha perlomeno sentito nominare. Io che mi sono occupato abbastanza approfonditamente della storia di Merano, l'ho incontrato diverse volte questo nome, fin da diversi anni fa. Ricordo, non so se qualcuno di voi ha conosciuto Don Primo Michelotti, che al tempo, diciamo dal 1937, era presso la parrocchia di Santo Spirito come cappellano, catechista nel liceo, eccetera. E è stato lui un po' a raccontarmi a darmi le prime notizie sulla storia di Merano e della comunità italiana di Merano in particolare, e ricordo sempre che che fu lui per primo a farmi il nome di Bruno De Angelis in relazione a Merano, dicendo: a un certo punto è capitato un certo De Angelis, e si parlava della costituzione del Comitato di Liberazione Nazionale della sezione di Merano. Che fosse un personaggio, dico tra virgolette, implicato nella storia di Merano, l'ho capito subito, e quando ho dovuto approfondire la storia soprattutto della Seconda Guerra Mondiale e del suo epilogo e dei primi mesi dopo la guerra, non ho potuto fare a meno di raccogliere informazioni, di verificare quanto c'era e di andare a cercare altre cose, soprattutto provando a vedere se esisteva qualcuno dei familiari che avrebbe potuto raccontare qualcosa. e quindi diciamo in qualche modo Bruno De Angelis, come i vari personaggi della storia che io ho cercato di raccontare, è diventato un po' un, ecco, direi un personaggio familiare, se posso dirlo, qualcuno con cui entrare in relazione. E per questo motivo, quando mi è stato proposto di introdurre la presentazione di questo libro, io non ci ho pensato due volte, ho detto subito di sì, intanto perché così avrei avuto l'occasione di leggerlo e poi di conoscere appunto la figlia di Bruno De Angelis, Vanna, che io non conoscevo, avevo parlato più volte con la sorella del padre. Ecco, questo è l'antefatto. Per quanto riguarda Vanna De Angelis, non ho trovato l'intera bibliografia, che pare essere sterminata, una ventina di volumi se non sbaglio, questo è il numero 19, però c'è già il ventesimo, in arrivo il ventesimo. Quindi lei, che attualmente vive a Milano ma con molta nostalgia dell'Alto Adige, appunto scrittrice, narratrice, di professione geologa se non sbaglio, o comunque di formazione almeno. La sua produzione di libri consiste in libri di storia, in libri a sfondo storico, romanzi a sfondo storico, soprattutto relativi al tema della caccia alle streghe e dei processi alle streghe, e poi anche libri per ragazzi, c'è una trilogia se non sbaglio di libri fantasy illustrati da Sandra Bersanetti, ho scoperto, che ha illustrato anche alcune mie favole africane, e quindi ci troviamo accomunati anche da questo. Questo libro in particolare è un po' diverso dagli altri perché, a differenza degli altri, è un romanzo autobiografico e quindi racconta l'autrice in prima persona una serie abbastanza anche intricata di vicende che la riguardano personalmente e che fanno riferimento al suo vissuto personale, e quindi sarà interessante oggi farsi raccontare come questo suo vissuto personale, come questa sua storia di famiglia è in relazione anche con la nostra storia dell'Alto Adige, di Merano e di questa zona. Come dicevo, annunciamo già che c'è questo nuovo romanzo in preparazione, sappiamo già il titolo? Dovrebbe essere, ma l'editore certe volte lo cambia, dovrebbe essere Venuto il momento di andare via. Questo è un titolo un po' diverso, è una storia anche un po'... lo dico poi dopo? Sì. Comunque il manoscritto sarà consegnato a marzo e uscirà in maggio, prendiamo nota. Io faccio una piccola introduzione storica, qualcuno forse ha già letto l'articolo che è uscito ieri sull'Alto Adige, da cui appunto si capisce in che rapporto in qualche modo Bruno De Angelis sta con la storia della nostra provincia. Due parole sul contesto. Seconda guerra mondiale, sappiamo che la guerra tocca relativamente l'Alto Adige fino al 1943, lo tocca nel senso che ovviamente i giovani di leva sono chiamati alla guerra, però non c'è la guerra in Alto Adige. La situazione cambia radicalmente dopo l'8 settembre, in realtà forse già un po' prima, anche nell'estate, diciamo dopo il 25 luglio del 1943, ma in particolare dopo l'8 settembre 1943, perché la zona viene occupata dall'esercito germanico, come del resto tutta l'Italia centro-settentrionale, però nella nostra zona viene creata una zona di operazioni cosiddetta, la zona di operazioni Prealpi, che comprende le province di Bolzano, di Trento e di Belluno, che sono poste direttamente sotto l'amministrazione del Reich, fanno riferimento al Gauleiter di Innsbruck. Quindi di fatto una sottrazione del territorio alla sovranità italiana, anche se poi formalmente continua a far parte dello Stato italiano, che a sua volta è suddiviso in due parti, perché c'è la Costituzione della Repubblica Sociale nel nord e l'Italia già liberata, invece, che continua a fare riferimento alla monarchia. Le azioni che si ricordano di questo periodo sono nell'immediato nel periodo immediatamente successivo all'8 settembre, parliamo per esempio dell'internamento di tutti i militari italiani che si trovano in provincia, del rastrellamento degli ebrei in tutta la provincia, ma in particolare a Merano, con la loro deportazione verso Auschwitz, e poi pochi episodi in realtà negli anni successivi, se non, diciamo, il fenomeno più macroscopico, che è la creazione del Lager di Bolzano, che funziona appunto dall'estate del 1944 fino alla liberazione. Verso la fine, no? Quindi a ridosso della liberazione, nei giorni della liberazione, in particolare fine aprile e inizio maggio, ci sono poi quegli episodi cruenti, tra cui il 30 aprile a Merano, il 1 maggio, adesso mi sfugge un attimo, o il 2 maggio in Val Venosta, e poi i primi giorni di maggio a Bolzano. Ecco, questo è un periodo in cui Bruno De Angelis è, oserei dire, protagonista. Dopo dirò brevemente come. Quindi questo è il contesto. Poi dopo la guerra abbiamo il periodo dell'amministrazione alleata e lentamente il riprendere della vita normale, però con una situazione in sospeso dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista anche diplomatico, perché fino al 1946 il destino della provincia non sarà deciso, perché finché al tavolo della pace non decideranno quali saranno i confini del dopoguerra, la sorte dell'Alto Adige rimane in sospeso. E in questo periodo, in tutto il 1945, Bruno De Angelis continua a rimanere un protagonista. Io adesso dirò in che senso. Bruno De Angelis. Sulla famiglia De Angelis lascerò parlare la figlia, direi, perché forse ha informazioni più attendibili delle mie. Però diciamo subito che fa parte, diciamo, pur provenendo da una famiglia italiana, no? Lui è nato a Roma, però si trova poi in un contesto familiare, per via del matrimonio, internazionale, no? Quindi con ascendenze polacche, svizzere, eccetera, e in una situazione in cui si parlano diverse lingue, una casa in cui si parlano diverse lingue, quindi ecco, non è, se vogliamo, l'italiano standard, no? E questo lo dico perché la versione semplificata della presenza di Bruno De Angelis in Alto Adige ha sempre parlato di un personaggio che arriva all'improvviso da Milano, mandato dal CLN, senza conoscere più di tanto la situazione, come tanti funzionari, diciamo così, italiani che erano arrivati in Alto Adige, che sarebbero arrivati anche dopo, appunto mandati da altrove, e per prendere in mano la situazione, riorganizzare la situazione in vista appunto della fine della guerra e dei primi mesi del dopoguerra, quindi con lo scopo preciso di rappresentare, chiamiamolo, lo Stato italiano nel momento di riappropriarsi di questo territorio. La sua storia personale invece, appunto come scrivevo nel famoso articolo, è un po' diversa, nel senso che Bruno De Angelis non è affatto uno che non conosce la situazione, probabilmente conosce la situazione meglio di molti altri, perché innanzitutto lui e la sua famiglia, soprattutto la famiglia della moglie, hanno lunghi trascorsi in Alto Adige e in particolare a Merano, dove sono stati anche residenti. Quindi la situazione in famiglia si conosce bene. Si conosce bene non solo l'aspetto, chiamiamolo così, italiano, ma anche il mondo di lingua tedesca e anche il mondo internazionale che allora ancora era presente soprattutto in una città come Merano. Non solo, in quel momento, essendo la zona occupata militarmente e anche amministrativamente dai funzionari del Reich, una buona parte della popolazione, chiamiamola così, residente a Merano è composta proprio da queste persone, quindi quadri del partito nazista, dell'esercito germanico, un sacco di unità, di cellule un po' stravaganti e che portano avanti progetti un po' strani. Uno tra tutti, avrete tutti sentito parlare di Castellabers, dove veniva organizzato lo smercio e il traffico di sterline false, proprio nell'ambito di un'operazione molto più ampia, partita dalla Germania, poi che aveva proprio a Merano un suo punto di azione fondamentale e che comprendeva anche lì personaggi che erano a metà strada tra la politica, tra il mondo dell'economia e tra il mondo militare, che appunto perché erano dopo tutto un'operazione commerciale anche questa, e che nel momento del passaggio di mano del territorio giocano un ruolo, perché lì si trattava effettivamente anche di avere persone capaci di trattare da tutti i punti di vista. E Bruno De Angelis, ecco, questo è un po' un interrogativo che probabilmente nessuno a cui nessuno saprà rispondere, però ha contatti anche con queste persone, no? In particolare c'è un personaggio citato nel libro, un certo Magnus, che fa parte forse di questo gruppo, cosiddetto gruppo Wendig, del maggiore Schwendt, che gestisce appunto il traffico di sterline, è conoscente di famiglia e quindi introduce in qualche modo, almeno questa è un po' la ricostruzione, anche De Angelis a Castellabers, e tramite Castellabers poi il generale Wolf, e si entra nell'operazione tesa ad arrivare alla resa dell'esercito germanico presente in Italia, che avviene appunto con la famosa firma di Caserta il 29 aprile del 1945, con effetto poi il 2 maggio. Ecco, in tutto questo rientra appunto il discorso dell'Alto Adige, che fine farà, e qui Bruno De Angelis è protagonista, perché appunto entrando in contatto con tutti questi personaggi, alla fine miracolosamente sarà lui, a nome del CLN Alta Italia, a raccogliere in qualche modo la resa delle truppe germaniche. Voi sapete che il generale Wolf si era trasferito a Bolzano con tutto il suo quartier generale a Palazzo Ducale, e quindi rimarrà lì fino a, mi pare, il 13 maggio, giorno del suo compleanno oltretutto. E quindi, diciamo, tutta una serie di circostanze fa sì che possa avvenire questo passaggio di consegne. E nell'operare questo passaggio di consegne, il Bruno De Angelis viene nominato prefetto, quindi sarà lui il primo prefetto della provincia di Bolzano, riconosciuto sia dal CLN che dagli alleati, contestato dalla, chiamiamola, controparte di lingua tedesca, perché oltretutto c'è anche questa parte, diciamo, in tutta questa realtà c'è anche un abbozzo di resistenza antinazista di lingua tedesca, con cui anche De Angelis, almeno a Merano, entra in contatto. Poi ci sono gli ex nazisti, chiamiamoli così, ci sono gli ex amministratori, per esempio sindaci, commissari, eccetera, che erano stati nominati dalle autorità germaniche, che per la maggior parte sono dei sudtirolesi, diciamo, abbastanza al di sopra delle parti, con posizione abbastanza neutrale, non si possono definire nazisti, ma persone con cui lui entra in contatto già da prima e con le quali poi avvia il processo di ristabilire l'ordine, le istituzioni, eccetera, no? Che è un cammino molto lungo e faticoso, proprio per il fatto che in realtà non si sa come andrà a finire la storia, no? Sapete che la provincia di Bolzano, ancora il 2 giugno del 1946, quando in tutta Italia si votò sul referendum istituzionale, qui invece non ci fu la votazione, proprio perché in parte non si sapeva più chi era cittadino e chi non era cittadino in seguito alle opzioni, ma anche perché non si sapeva bene il territorio, se il territorio avrebbe poi fatto parte di questa repubblica o monarchia. Ecco, e quindi un ruolo molto importante. Ecco, in tutte queste fasi la caratteristica di Bruno De Angelis è stata quella di andare per la sua strada, potrei dire così, no? Quindi di farsi di molti nemici, di risultare antipatico a molte persone, di suscitare gelosie, incomprensioni, eccetera. Dal mio punto di vista, come l'ho capita io, per esempio il suo scontro col CLN di Merano è totale, no? A un certo punto, soprattutto dopo l'episodio del 30 aprile, dove, diciamo, le responsabilità non chiare non sono mai venute fuori, no? Però per vari motivi ci fu uno scontro che andò avanti per mesi. Ecco, da come la vedo io, ecco, senza voler giudicare né l'uno né l'altro, però sicuramente De Angelis sapeva più cose di tutti gli altri messi insieme, no? E quindi in questo senso suscitava sicuramente delle gelosie, delle incomprensioni. Probabilmente io non l'ho conosciuto, non so che carattere avesse, però da quanto ho letto nel romanzo, a casa non raccontava molto di queste cose qui, no? E quindi era uno che le cose importanti se le teneva per sé e probabilmente non le confidava nemmeno ad altre persone che avrebbero ritenuto di avere delle responsabilità, no? E quindi l'anno 1945, da maggio in poi, fu molto faticoso per De Angelis. Innanzitutto si trattava di scendere a patti col mondo di lingua tedesca, in particolare con la Volkspartei, appena nata l'8 maggio del 1945, e ancora con l'obiettivo dell'autodeterminazione tra i suoi principali obiettivi. No, quindi si trattava di trovare invece un compromesso per almeno provvisoriamente gestire insieme il territorio. Quindi c'era un viceprefetto di lingua tedesca con cui era necessario collaborare. Naturalmente scendere a patti con la Volkspartei significava che gli altri partiti italiani si ribellassero, perché significava parlare con, in certi casi, cosiddetti ex nazisti, no? Perché già da lì, da una parte i tedeschi erano considerati tutti nazisti e dall'altra gli italiani erano considerati tutti fascisti, no? E quindi lui, che in realtà poi diciamo, come orientamento politico dichiarato era un socialista, no? Ecco, si trovava un po' in parte in una posizione buona per fare da mediatore, dall'altra non era amico né dell'uno né dell'altro e quindi le prendeva sia dagli uni che dagli altri sostanzialmente. E, le dichiarazioni sue, come risultano in parte anche dalla stampa locale, si vede che lui cerca di venire incontro alle varie esigenze, no? Però nel farlo, proprio in quella situazione lì, il risultato fu che nessuno, che non accontentò nessuno. A un certo punto il governo centrale, infatti, si trovò costretto in qualche modo a richiamarlo e a sostituirlo, questo verso la fine del 1945, inizio 1946. Però il De Strobel, non so se qualcuno di voi l'ha sentito nominare, che era un diplomatico di professione e che in quei mesi era sostanzialmente l'informatore di De Gasperi sulla situazione in Alto Adige, e che invia una serie di dettagliate relazioni sulla situazione, personaggio anche lui che conosce bene la situazione perché discende da una, chiamiamola, antica famiglia meranese. Ecco, di De Angelis, cioè tra i vari personaggi in conflitto, quello che lui salva è Bruno De Angelis. Non nel senso che lo beatifichi, ma nel senso che la sua impostazione, la sua analisi, il suo modo di operare e di vedere le cose lo considera l'unico all'altezza della situazione. Ecco, è un po' una situazione che conosciamo anche nei decenni successivi, no? Quella della difficoltà, soprattutto da parte, direi, della popolazione di lingua italiana e dei suoi rappresentanti, di avere una visione della situazione, della realtà all'altezza della situazione, cioè che tenga conto veramente della storia, delle esigenze altrui, delle sensibilità altrui, delle varie componenti del territorio. Ecco, è una cosa abbastanza rara, vorrei dire ancora oggi questa, anche se sicuramente molte cose sono maturate e anche molti modi di vedere sono cambiati e oggi per fortuna sono anche almeno in parte condivisi tra i gruppi linguistici. Però qua stiamo parlando del 1945, e allora che ci sia una persona nel 1945 che da un diplomatico dal fiuto ben sviluppato come De Strobel viene considerata all'altezza della situazione, ecco, io di lui mi sono fidato, ecco, nel fare la mia ricostruzione. Ecco, penso che come introduzione sia più che sufficiente, no? Adesso vogliamo sentire parlare Vanna De Angelis e io le chiederei subito appunto di raccontarci questo, cioè quali sono i rapporti suoi e della sua famiglia con l'Alto Adige. Ecco, intanto dico che per me è commovente sentire parlare così del mio babbo, no? Perché io non lo conosco sotto questo aspetto e adesso vi spiego perché. Posso alzarmi? Perché io parlo male seduta. Preferisco stare in piedi. E ringrazio moltissimo Paolo per questa introduzione che ha fatto, e sentire la voce di una persona che parla di qualcuno che è stato fondamentale nella nostra vita è molto di più che leggere. Cos'è stato l'Alto Adige per la nostra famiglia? Ma io sono arrivata qui che ero piccolissima con i miei genitori a Merano, perché, come ho saputo dopo, i nonni vivevano qui. I nonni sarebbero i genitori di mia madre, di nome Krzyszkowski, che erano molto amici degli Hansen e dei Singer, che erano qui a Merano, che forse voi conoscete, i figli erano sono dentisti forse, eccetera. Erano tutto un gruppo e io ho un rapporto profondo con questo lato della mia famiglia, mentre il lato italiano mi era quasi sconosciuto. E non so per quale scelta dei miei genitori. Io credo che, adesso che ci penso, questo libro in realtà, me ne rendo conto adesso, è stato proprio un atto di amore a Merano e agli anni che ho passato qui. Scusate, questo discorso di Paolo mi ha molto commossa, non me l'aspettavo. Adesso mi riprendo. Di solito non mi commuovo quando presento i libri, ma questo è un po' particolare. Prima di tutto però, prima di raccontarvi di questo significato, vorrei dirvi come mai è nato questo libro autobiografico, che era lontano dai miei pensieri mille miglia proprio. E così vi parlo anche di com'era il mio lavoro. Ho cominciato a scrivere 20 anni fa, in modo sempre più approfondito, nel senso che dai primi romanzi storici, perché sono sempre stata appassionata di storia, sono passata poi a scrivere questi saggi sulle donne accusate di stregoneria e in realtà mi sono sempre organizzata nelle mie scelte per i miei romanzi o per i miei saggi sul tema della diversità, cioè chi è diverso mi affascina e anche perché il tema della diversità mi pone in un rapporto con me stessa, cioè io devo fare prima di tutto i conti con quello che io ritengo il diverso da me, no? E a un certo punto il mio editore, dopo che ho scritto anche dei fantasy, mi ha detto: ma scriviamo, proponimi qualcosa di moderno, no? E questo accadeva 2 anni fa, il libro è uscito l'anno scorso, nel 2010, e insomma c'era questa crisi che cominciava, no? Cioè che era già, insomma, io ero molto colpita da questo sfacelo in cui ci troviamo, in cui l'economia va a rotoli, le persone perdono il posto, eccetera, e questo mi risuonava nell'orecchio qualcosa del mio babbo, no? Allora gli ho mandato un file in cui gli ho detto: guarda, ti mando un plot, no? Cioè un soggetto, e gli ho raccontato la storia di un uomo che, dopo aver avuto una vita di grandi successi, sia anche sociali, non solo di lavoro, professionali suoi, ha avuto un crollo spaventoso con una sorpresa finale di una ripresa del tutto non prevista. E allora lui ha detto: guarda, questa storia mi piace, ma come mai? Dico: guarda, qui vanno tutti paura di finire su un lastrico, facciamo la storia di una persona che ci finisce, no? Così facciamo un libro in cui uno può vedere questo suo incubo personale. Allora mi ha chiamata e mi ha detto: ma sei sicura di conoscere bene questa storia? No, dico: per Bacco, figurati, la storia del mio babbo, la sua memoria, dico, ci sono andata di mezzo moltissimo, no? Ah, fa lui, fantastico. Allora la scrivi in prima persona. Io ho detto: ma non ti sognare, io non ho mai voluto fare, cioè sono al 19° libro, non mi è mai venuto in mente di fare un'operazione che spessissimo fanno gli scrittori, che cominciano subito con una storia autobiografica, che per me era inaudito, perché dico, non lo so, io dico, ma non so, bisogna essere Elia Scanetti, bisogna essere uno scrittore, mi sono sempre considerata una brava narratrice, una brava professionista, ho fatto degli studi sul linguaggio, eccetera, però lo scrittore ha quella marcia in più, non so, lo scrittore è Thomas Mann per me, ecco. Quindi dico: guarda, no, insomma, il sito mi mette tanto, poi insomma il contrasto, una cosa e l'altra, dico: vabbè, allora ci provo, no? Ho avuto a quel punto dei grandissimi problemi, perché io sapevo questa cosa del babbo, no? Questa cosa ma vagamente, perché noi siamo sempre vissuti, diciamo, nella stanza dei bambini, e quindi saranno stati anche i tempi che usavano così, però c'è tutto un territorio in cui i personaggi dei miei genitori e gli altri che apparivano al loro fianco hanno il loro colore, la loro luce particolare, però certamente non le vicende politiche, o questo non sapevamo niente, no? Allora ho detto, ma poi conoscevo anche il libro che ha scritto Paolo, e dicevo, cosa faccio, una ricerca, eccetera. Dico, ma dico no, facciamo così, mi sono detta, faccio esclusivamente quello che è stata nella mia personale esperienza, perché sennò mi vado a impappocchiare in modo terribile, no? Non so poi bene i rapporti, cioè non mi andava. E poi la seconda scelta è stata fatta sulla scrittura, perché quando si scrive in modo professionale, come si dice, allora il linguaggio diventa quello che per uno che suona il pianoforte sono i tasti, no? Diventa una cosa fantastica, cioè le parole, il modo di metterlo insieme, congiuntivi, indicativi, il passato, il perfetto, adesso ci metto questo. È come se io avessi davanti un telaio, dovessi fare una tela e poi mi tiro tutti i vari fili, e a forza di farlo è come un calzolaio che sa fare delle bellissime scarpe, no? Cioè non è un genio, devo dire, è l'abilità di un lavoro che io ho condotto sempre con molta passione, devo dire, no? Allora ho detto, ma allora che scrittura, allora non mi andava di fare una scrittura tipo romanzo d'avventura. Allora ho detto, ma sai che c'è stavolta? Io scrivo come mi viene, cioè proprio in modo interlocutorio. Infatti il modo di scrivere è molto colloquiale e credo grosso modo che sia quello che dà il fascino al libro in un certo senso, quello che prende quando lo si legge, no? Perché uno si sente tirato dentro da questo rivolgermi così senza nessuna mediazione al lettore. E così il libro comincia con la figura del babbo in questa meravigliosa sala del pianoforte. Il pianoforte è stato il grandissimo amore perduto della mia vita, perché quando sono andata via da Merano praticamente è finita l'epoca in cui io suonavo il pianoforte, no? Mi piaceva da pazzi. E comincia da lì, e comincia raccontando il rapporto col babbo e man mano approfondendo con gli altri personaggi, no? Nel senso che mi sono accorta scrivendo che, ricordando la figura di quest'uomo indubbiamente grandioso e dal carattere difficilissimo, perché è stato in certi momenti era francamente tosto come personaggio, ho detto, io lo racconto com'è, no? Poi parlo anche dell'Alto Adige, ma così prima mi riprendo un po'. E infatti, quando ho presentato un'altra presentazione che ho fatto, mi hanno detto, ma insomma, dico, tu hai parlato del babbo anche dei suoi difetti, no? Infatti si vede questo personaggio di piglio indubbiamente grandioso, di una cultura micidiale, sterminata, esigentissimo con i suoi figli per quanto riguarda la cultura, cioè se a 12 anni non avevi letto Montaigne eri praticamente una specie di cretino in famiglia, no? Cioè dovevamo leggere di tutto, conoscere tutto, essere bravissimi a scuola, e lui organizzava anche i nostri, quando veniva a Merano, e non era, evidentemente lui andava e veniva, no? Specialmente appunto dopo 45, e perché lavorava a Milano, a Roma, a Venezia, insomma quel poco che so, e il gioco era sempre quello delle domande, ci faceva delle domande di cultura e se non le sapevamo eravamo visti come, cioè sentivo molto questo, non era disprezzo perché era troppo ironico in fondo per avere disprezzo, no? Era troppo, aveva un senso dello humor che era anche sarcasmo formidabile, però insomma uno si sentiva proprio un povero idiota, e questa è stata una cosa che è un po' pesata a tutti i figli, no? Che se non eri proprio al top, il babbo aveva una personalità talmente forte. E allora mi hanno detto, ma insomma tu hai raccontato, non so, che a un certo punto beveva, hai raccontato questo, le sue collere e così via. E ho detto sì, perché mi ricordo che un giorno sono andata giù, io ho un bar sotto casa molto, che mi piace molto, proprio un bar di tipo popolare, sono amica del proprietario, e gli ho detto, ma scusa, secondo te si può o non si può dire che il padre era uno sbevazzone? E lui ha detto, ma perché no? Ho detto, già è vero, perché su questo mi sono fatta proprio dei problemi, no? Ho detto, ma cosa facciamo, una figura? Poi ho detto, poi sono tornata su, ho detto, ma io non mi devo mica fare una figura beatificata, e mi è venuto in mente una cosa che, in cui io credo profondamente, che per rendere veramente con amore una persona è perfettamente, cioè è falso, è banale rappresentarla come se fosse, come quando uno muore si dice ah, è morto questo fantastico personaggio, magari in famiglia era una peste nera, no? Però leggiamo questi epitaffi. E io credo che renderlo veramente nella sua umanità sia un modo per ricordarlo veramente con amore sincero, perché se gli dici invece che era fantastico e tagli su tutto il resto, invece di dare la figura col suo calore, il suo cuore, la sua intelligenza, i suoi difetti, le sue qualità, no? Dai uno stereotipo, no? Allora ho detto, io se vado avanti così do uno stereotipo, allora da lì poi sono andata avanti tranquillamente. Il libro è una dichiarazione d'amore folle per le vostre, potrei dire anche nostre, montagne, per i luoghi, l'aria, gli alberi, la natura, no? Chi lo potrà leggere, vi ringrazio, vedrete come vivendo qui, ho proprio raccolto, per me è stato fondamentale, perché io insomma ci campo ancora su questo amore per la natura, a me ha dato una forza enorme vivere qui. E anche, questo è stato così anche per i miei fratelli, i miei genitori, i miei nonni, questa nonna Kiszkowski che mi portava a fare queste lunghissime gite, poi anche il babbo era uno che amava molto la natura, però c'era questo senso magico che io ritrovo qui, cioè per me sono indimenticabili i profili della montagna con la mendola in fondo, no? E infatti c'è un capitolo in cui mi fanno fare un tema a scuola, mi ricordo che c'era forse la Cardelli, non mi ricordo bene il nome di questa professoressa, ho preso anche il 5 fra l'altro, sì, proprio mi ha detto ma come, dico io che scrivo bene. E il tema era Dio Monti sorgenti dall'acqua, no? Io dicevo beh, per me Dio Monti e cavolo queste montagne qui, perché a me stavano già andando via, stavano già facendo questo drammatico trasloco. E parlo con profondissimo amore di questi luoghi, infatti se qui io vi ringrazio enormemente di essere tutti qua, mi commuovete anche, però vi invidio follemente, questo ve lo devo dire, perché io soffro come un cane ancora a vivere a Milano, d'altra parte per una serie di circostanze non ho potuto venire su. Parlo invece malissimo di Milano, infatti appena parlo di Milano c'è la rappresentazione di questo tram, che è uno dei ricordi più, dei primi ricordi che ho, che mi portava a scuola, e chi ha letto il libro a Milano mi ha detto sì, però insomma non potevi parlare così di me, cioè la pioggia è diversa, il vento è diverso, l'aria di primavera è diversa, cioè non c'è niente, no? Io sento moltissimo la lontananza da tutto questo. E il babbo è stato un personaggio importante, perché anche in questo, perché io ricordo le lunghissime gite alla Parete Rossa, poi su allo Stelvio, alla Mendola, poi andavamo anche dall'altra parte in Svizzera, e San Vigilio e a Velengo, mi ricordo erano delle gite fantastiche proprio, no? E in questo lui è stato anche un così, mi ha comunicato anche molto. Però il senso profondo della natura, quello era, veniva più da mia nonna, che viene descritta qui anche con un cuore spezzato, perché poi insomma viene raccontato anche un episodio che riguarda mio padre e mia nonna. Allora, volevo però dire una cosa, nonostante la commozione con cui io sto parlando adesso, il libro è pieno di ironia, cioè in realtà sono riuscita a recuperare quel senso di distacco per vedere questi episodi, e alcuni sono, fanno anche ridere, perché è veramente, queste persone sono poste nel libro col lato un po' umoristico che abbiamo ognuno di noi, no? Visto da un certo punto di vista può essere anche teneramente buffo, no? Ci può fare, e questo è tutto il libro, è così, no? Perché non è, fra l'altro, nella mia natura né di piangermi addosso né di avere dei rimpianti o quelle lacerazioni per dire ah, i tempi andati, no, per carità, quello che conta è sempre l'ora e adesso, no? E questo si vede, no, nel libro. E ci sono le cose che ho imparato da mio padre, non solo da mia nonna e credo anche da mia madre, nonostante fosse una figura mi dispiace che non c'è nessuno che la ricordi, ma questa donna di rara bellezza e così algida e distaccata, però anche lei aveva questa sua grazia incredibile. E quindi ci sono anche i rapporti fra i miei genitori. Non c'è nulla della parte politica, se non qualche breve accenno di quelli che sono trapelati, più o meno sfalsati, no? Sfalsati nel senso che come erano percepiti da noi bambini, no? E però seguo il babbo in questa sua cometa, posso dire così, no? Per cui da questo uomo che aveva anche molti mezzi, che viveva molto di un gusto strepitoso, le case erano bellissime, piano si va, questa cosa va al diavolo, cioè c'è un crollo, una catastrofe totale, il babbo perde degli impieghi, ha delle cause, insomma, io non ho ben capito. C'è un episodio in questo libro in cui lui sfascia, cioè ha un incontro, ve lo dico così se lo leggete almeno vi stupite, in cui ha a che fare con Sindona, no? Non so, vi ricorderete questo personaggio lugubre, tutto sommato, no? E io credo che il babbo avrà fatto senz'altro degli errori, però è una persona di grande onestà e mi ha fatto piacere sentirne parlare così da Paolo anche, no? E non era certo quello che compri per soldi o sarebbe stato inorridito dalla situazione politica di oggi, credo. E cioè, proprio per lui era inaudito che qualcuno potesse vendersi, no? E insomma, a un certo punto è andato tutto sempre peggio e alla fine, proprio come vedete nel libro, c'è proprio una debacle totale, no? Il babbo senza una lira si ritrova in questo ospedale in cui non muore, noi eravamo tutti senza un soldo, naturalmente adolescenti che cercavamo di fare qualche lavoretto, insomma è stata proprio strampalata sta storia. A un certo punto però, nell'ultima parte del libro, il babbo ha una... così, gli si apre, non so come, un orizzonte spirituale, chiamiamolo così, interiore, per cui diventa una persona, lui già era una persona estremamente ricca, no? Ma diventa una persona di una così profonda ricchezza intima, no? E una volta che mi aveva detto, ma al mio funerale non verrà nessuno, al suo funerale c'erano credo 300, 400, c'era un funerale affollatissimo, perché in questo paesino dove poi è finito, lui è riuscito a tal punto a essere presente con generosità, mettendo a disposizione dei figli delle persone meno abbienti la sua cultura, che tutti traboccavano di riconoscenza. Infatti c'è scritto che a un certo punto io ho conosciuto delle persone che mi hanno detto, ah, guarda, ho incontrato il bambino, okay. Così è stato molto commovente e anche molto istruttivo, no? Io credo che sia anche dal punto di vista, come si dice, pedagogico, insomma come educazione, no? Io credo di dovere molto a questa famiglia che ho voluto raccontare, di un'indole insomma che sa tenere le spalle diritte, diciamo così. E però ecco, quando dicono un'autobiografia, io credo che sia il senso non era quello di raccontare di me, proprio il senso era di raccontare questa figura di quest'uomo che potrebbe essere di insegnamento, no? Anche, cioè, ecco, e poi una cosa che volevo dire è che gli sono molto grata di avermi fatto vivere fino ai 15 anni a Merano, perché ci saranno moltissimi altri luoghi d'Italia in cui, vivendo in campagna o nelle montagne, uno può essere così felice, però io qui sono stata veramente felicissima e credo che proprio vivo ancora di rendita di quello che è stato per me l'Alto Adige, anche con tutte le persone che c'erano e che popolano questo libro. Non so, per esempio c'era questa signora Schmidt, che era questa cantante che arrivava a cavallo dai miei nonni, e c'erano queste persone che venivano, questo milieu internazionale di cecoslovacchi, polacchi, inglesi e così via, no? e c'era Magnus, che io mi ricordo, questo spilungone biondo. Anzi, volevo dire anche che quando sono ho cominciato questo libro, ho detto buono, andiamo a vedere anche su internet, no? E ho trovato, fra l'altro, con stupore, che quello che io chiamavo lo zio Carlino era un Carlo qualche cosa, adesso non mi ricordo più il nome, era uno che abitava in via Maino a Milano, mi ricordo, ed era uno che aveva avuto a che fare, ma a livelli anche politicamente molto importanti, in questa, se ti interessa ti mando il conto, noi lo chiamavamo lo zio Carlino, ed era Carlo qualche cosa, guarda, che comunque era impicciato politicamente in modo. Poi un altro che era il colonnello Montesi, no? E che in realtà vedo che si chiamava come partigiano, non so, Fausto, Fulmine, un nome così, anche lì ero stupefatta, ma questo l'ho scoperto perché ho fatto sto libro, non ho mai saputo nulla di queste cose, cioè il babbo non ha mai raccontato niente. E chi lo sa, non so perché abbia fatto così, forse mi avrebbe fatto anche piacere sentire dalla sua voce questi racconti, ma non ha mai, era come se quello fosse una cosa che riguardava lui. Aveva una grandissima abilità, devo dire, che si vedeva anche dal libro, perché era un uomo a cui piacevano molto le donne, nel separare i settori, chiamiamolo così. Quindi io facevo parte dei settori, del settore in cui non doveva trapelare tutta una serie di cose che lo riguardavano, e neanche la sua impegno politico, immagino, che poi, vabbè, ovviamente poi uno resta in quel cotè. Ecco, io avrei... Voi siete stati a Merano da che anno a che anno? Da che anno a che anno siete stati a Merano? Dunque, aspetta, dal 30-40 forse, no. No, forse dal 39-40 fino agli anni 50, 51-52, non so. Io ero proprio piccolissima. Quindi di Merano in quel periodo cosa ti ricordi di particolare? A parte questi personaggi che... Perché diciamo un po' sembra che la vostra vita sia stata quasi in un'isola, no? Certe volte sembra leggendo, no? Oltretutto i miei erano severissimi, quindi... eravamo chiusi anche rispetto agli altri, cioè non è... però andavate a scuola, sì, frequentavate, eccetera. E quindi diciamo, qual era l'ambiente che ti ricordi attorno? Ma non ho, mi ricordo che le persone che frequentavamo, cioè le persone che mi sono rimaste, diciamo, sono i Franceschini, no? Ugo, che era credo in classe con Livia, con mia sorella maggiore, Ivo, che era più piccolo, che è più piccolo, e poi mi ricordavo Osvaldo Palozzi, no? Giorgio Trevisan, Umberto Gandini, questi sono, ecco, mi dispiace, sono tutti uomini, ragazzi. Era una classe maschile. Delle ragazze non mi ricordo mai. Mi ricordo che c'era una che si chiamava Speranza, che invece per riguardarmi il babbo un giorno mi ha detto tuo padre è un porco, che mi aveva fatto... Avrò fatto la, forse ero in quinta elementare, non so, ero proprio piccolina, e ho detto come un porco, io ci sono stata proprio male, e lei no, so io, via, probabilmente non è che sono andata a casa a dirlo. E, ecco, la Speranza me la ricordo, di nome, poi mi ricordo una, che non mi ricordo più il nome, però che aveva degli occhi uno diverso dall'altro, e basta, ecco, e non frequentavo, cioè eravamo molto in casa, no? Quando uscivamo, avevamo questa Ina Schenk che ci scortava come se dovessimo precipitare nel vizio da un momento all'altro. I miei erano terribilmente, infatti raccontavo... Come era giovane. La Ina, sì. E mi ricordo che una volta appunto mia sorella è stata beccata sulla Pioneerweg con Ugo, no? E dopo 10 giorni lei e io eravamo in collegio, io dicevo a mia madre, scusa ma io cosa c'entro in questa storia? Di' anche tu. cioè questo per dire il clima che c'era in casa, siamo sopravvissute felicemente, però è anche indicativo un po' del, soprattutto al periodo della guerra, Merano, l'impressione che ne ho ricavato proprio andando a interrogare persone che l'hanno vissuta è di una serie infinita di mondi quasi non in comunicazione tra loro, no? Tante piccole isole messe lì, tanto che mia madre, per dire, faccio questo esempio, in via lungo il Passirio nella villa Burgund c'era una, come abbiamo ricostruito, si era trasferita la missione navale giapponese, no? Dopo il 1943-44, no? E mia madre, che abitava a 200 metri, non lo sapeva, me l'ho detto io 50 anni dopo, no? Tanto per dire, no? Come il modo per sopravvivere, no? In quella realtà, diciamo soprattutto dal 43 al 45, era quello di vivere in maniera isolata, no? Ho presentato anche il libro. Sì, sì, infatti, esatto. No. Una domanda che mi sono fatto leggendo non solo il titolo, ma visto che il titolo è quello, è questo Bosco degli Elfi. Allora, il senso cos'è? C'è davvero? Ovvero, ha un posto, perché poi tu descrivi che vai nel bosco, eccetera, sì, no? Sì, era un posto in cui andavo su con il bambino, no? Non so bene se fossero degli ontani gli alberi, quelli che l'ho messa perché ho una particolare passione per gli ontani. E gli ontani sono degli alberi magici, no? Hanno moltissime fiabe, leggende nordiche, eccetera, no? Hanno queste caratteristiche magiche. E il Bosco degli Elfi era questo gioco che faceva il bambo, diceva sempre, io dicevo, ma scusa, ma andiamo a vedere il re degli elfi, e lui diceva, ma chiudi gli occhi, quando lo riapri lo vedi, io chiudevo gli occhi, li riaprivo e diceva, accidenti, qua lui è già passato, non lo vedevo mai questo re degli elfi, no? Finché alla fine ho pensato, ma forse il re degli elfi, in fondo, in un certo senso, forse è il bambo, cioè, perché lui aveva questo... aveva anche lui questa corte in cui gli piaceva, come posso dire, sconcertarmi, stupirmi, no? con i suoi racconti. Era un grande raccontatore, raccontava in modo meraviglioso, e quindi forse all'interno, il titolo non l'ho scelto io, comunque l'ha scelto l'editore, perché ho detto, ma scusa, sembra un fantasy, mi sembra che non ho scritto un fantasy. Lui ha detto, no, guarda, va bene così. Dicono sempre che gli autori possono dire la loro su copertina e titolo, però vi assicuro che non è. No, possono dirla, ma non è detto che siano ascoltati. No, sì, no, sì, sì, lo dicono, ma non, sì. non sono ascoltati. Ok. Magari, forse qualcuno ha qualche domanda o qualcosa da dire. Laggiù. Io volevo un magistero, mi chiamo. Devo domandare una cosa. Mi dica. Mi ricordo una certa Anna. Non so se è lei, ma mi sembra possibile. Nel 43 ancora. Ma lì allora? Io ho lavorato con suo papà. Ah sì? Per suo papà. Ah, lei lo conosceva? Mi fa piacere. Benissimo. Mi fa piacere, ma io i figli, io mi chiamo Vanna, non Anna. Vanna. Appunto che Vanna non me la ricordo, mi ricordo la Livia. Livia, vede, quasi. Sì, infatti. Era invadito. Ah, era di una bellezza, sì, era molto carina. Un altro fratello e la terza Anna. No, ero io, sono io, Vanna. Sì, infatti mia sorella che si chiamava Livia veniva chiamata Lidia, si offendeva. Io che mi chiamo Vanna venivo chiamata o Anna o Vanda, e ogni volta dicono scusa. Comunque mi fa piacere conoscerla. Avere qualcuno che conoscesse il babbo oltre me. Lavoravo nella villa di fianco, sì, sì. No, alla villa Beatrice, dove, sì, sì. Dove abitavate. Non mi ricordo, pensi. A proposito, Fabio condoglianze per suo papà. Il conto mio è stato incastrato nella faterna dell'usura, il conto mio. Nella faccenda? Dell'usura con due. Ah sì. Non ne so nulla, guardi. Ti faccio i complimenti. Grazie, poi vengo a stringere la mano, mi fa piacere che l'abbia conosciuto. Vedete che emergono i personaggi del romanzo, in Carmen Rossi. Davvero. La signora che... Prego. Volevo fare un'altra domanda, cioè una domanda di tipo diverso. Lei ha parlato di, che ha scritto con ironia anche il libro, allora le volevo chiedere, l'episodio della storia che dice che pensava che anche suo fratello avesse le cose, è vera o è ironica? Purtroppo è vera. Pensate, eccoci qui, sarò, ma immagino che dati i tempi posso anche parlarne. Cioè avevamo avuto un'educazione talmente micidiale dal punto di vista, chiamiamolo, sessuale, cioè voglio dire fisico, che quando mi sono venute le prime mestruazioni, a parte che mia madre non ha aperto bocca ma mi ha rifilata subito dalla governante che mi spiegasse lei vagamente qualcosa, ti verranno ogni mese eccetera, allora c'era lì la mamma, mi ricordo che fumava una sigaretta. Gli ho detto, scusa, ma gli uomini anche, e i ragazzi, no? Ce l'hanno anche loro? Mia madre ha fatto una faccia come per dire che domande, ed era molto severa nel fatto di non fare domande. E io ho interpretato questo che domande, certo che ce l'hanno, non ne parliamo. Certo che ce li hanno, non ne parliamo. Allora, la governante, la Schwester che avevo, mi ha detto, mi raccomando, guarda, di mestruazioni non si parla mai, cioè tu puoi avere il mal di pancia, ogni mese ti cioè l'educazione vuole che tu tenga la bocca chiusa e che nessuno lo sa. Ma è vero che anche mia sorella lo sapevo vagamente, no? Cioè mi accorgevo da certi traffici che probabilmente anche lei. E dicevo, chissà come fanno i miei fratelli, anche loro. Allora, non bisognava parlarne. Arrivo all'università, no? E allora io ero già via di casa, il babbo era già in ospedale, era già in Cosoli, in provincia di Milano, a Cassano d'Adda, e stavo in questo posto, come si chiama, dove vivono gli universitari, avevo una compagna che faceva medicina, no? Allora ho detto, senti, toglimi una curiosità, perché comincio adesso avere una vaga idea anche dai libri, no? Come sono fatti gli uomini, ma come fanno con l'assorbenti igienici loro? È stata una catastrofe. Sono stata sbeffeggiata, cioè sono diventato lo zimbello di tutti, no? Evidentemente, anche perché avevo 18 anni compiuti, poveraccia. E mi ricordo che ho detto, ecco, vedi, cavolo, aveva ragione la Schwester a dire che di mestruazioni non si sa, perché guarda che figura spaventosa che ho fatto. No, non è inventato, è vero. Sì, e dico, ma ci dite, tenere la bocca chiusa? No. Ecco. Sarei curiosa di sapere l'importanza che ha avuto nella sua vita questo, diciamo, questa ricchezza culturale particolare, immagino, adesso io non conosco lo svolgimento della sua vita, probabilmente ci sono state fasi alterne che non è la vita di tutti, ma l'avere con sé una conoscenza così vasta proprio della letteratura, della cultura, è stato un appoggio morale, un sostegno continuo nel tempo, oppure lei ritiene che un'istruzione particolare che sia poi relativamente importante e che prevalga l'aspetto pratico? No, credo che sia fondamentale, francamente, sia veramente fondamentale, e credo che indirettamente la cosa mi abbia aiutato senza che io ne fossi perfettamente consapevole. Ne sono consapevole oggi, cioè oggi mi sono resa conto di avere delle agilità mentali che vengono da questa, e questo mi ha anche rassicurata molto, no? E diciamo che è un processo che è arrivato tardi, perché in realtà in una famiglia così severa, no? In cui dovevi essere sempre all'altezza di qualche cosa per esserci, no? Come dicevo a Osvaldo, cioè io ero quella con i ricciolini, gli occhi blu, un po' occa. Questa era la mia connotazione, perché in realtà mi perdevo. Poi avevo avuto questa malattia, ho avuto la meningite, che mi aveva anche così appiattita per un certo periodo, e però questa ricchezza culturale indubbiamente mi è rimasta, no? ma mi ha aiutato, devo dire, negli ultimi tempi sono stata consapevole di come fosse importante, ecco. Prima, una compagnia continua che uno ha dentro di sé anche senza rendersene. Sì, devo dire che ecco, bisogna essere anche curiosi, ecco la cosa che penso che non bisogna, io insegno a studiare, no? Insegno apprendimento oltre alla scrittura e ai miei allievi dico sempre la cosa più importante è la curiosità, cioè devi essere curioso di quello che ti succede intorno, no? Credo che sia la cosa principale questa. Io, senza che ci fossimo messi d'accordo, avevo fatto tutta una serie di domande e man mano che lei parlava quindi me ne rimane solo una che vorrei fare. E nel romanzo c'è questa parabola della storia di tuo padre, e, diciamo, dal successo iniziale dal punto di vista lavorativo, economico, della situazione in generale, anche nella politica, questa affermazione, questo riuscire a ottenere risultati importanti, poi il declino, no, il paragone con Napoleone è venuto spontaneo, sì. No? Che era proprio il suo idolo, ecco. Non a caso. L'idea di successo che ti ha trasmesso tuo padre, se c'è un'idea di successo, no. Cosa è il successo? No, wow. Infatti lo dice all'inizio, no? Credo che ci sia una frase riguardante il successo proprio nella prima pagina, cioè la parola successo per lui era una parola credo volgare, no? Cioè proprio successo non, cioè è una roba che si lascia, come li chiamava? Scusate, posso vederlo? Perché francamente sto scrivendo una, non ricordo mica. Credo che qui c'è qualcosa sul successo e dice, ecco, per esempio dico, sotto il suo sguardo ero niente di più di un bruscolo nell'universo da lui creato, lui era gigantesco, io ero proprio, ecco, oh, oddio, adesso qui spiegherei troppo, non mi, però ecco, non fai le cose per avere successo. Fai le cose perché le fai, ecco, sostanzialmente, perché ti piace farle, fai le cose perché devi, io nella mia vita ho fatto le cose perché dovevo guadagnare dei soldi, evidentemente, ed essere autonoma, e poi ho fatto le cose che mi piacevano, nel senso che mi piace scrivere, e che è anche abbastanza un gusto tutto sommato, perché non è che quello che guadagno con i libri copra il budget annuale, no? Per cui devo fare sempre qualcos'altro. Per guadagnare con un libro e avere successo, fra virgolette, bisogna andare oltre le 25.000 copie, se resti sotto, sono già tantissime per l'Italia, se io dico all'editore guardate io vendo 12.000 copie, loro dicono ah ma allora venga a lavorare con noi, perché un libro vende su 3-4.000 copie, 5.000, a meno di non essere di quelli che vanno ma si contano sulle mani, e appunto, però ecco, non, anzi io sono, cioè il successo non proprio chi se ne frega, voglio dire, ecco, non, lui non ha, cioè faceva le cose perché queste lo riempivano nel suo, una soddisfazione personale. Sì, lo fai perché ti piace, perché cioè non è che ti ammazzi, e poi oltretutto l'idea di essere, cioè ecco, una cosa che il babbo non aveva, e per fortuna proprio non è mai stato un essere cinico, un uomo cinico, cioè aveva sempre, magari si arrabbiava in modo pazzesco, aveva delle furie, però era una persona calda, non era un freddo calcolatore, se no non sarebbe finito così a rotoli, credo. E quindi siamo qui, però vi ringrazio tantissimo. Noi ringraziamo lei. Ora ci diamo appuntamento a lunedì prossimo. Stessa rete, stessa ora. Davvero grazie, vi sono proprio grata di essere venuti, ma proprio tanto. Grazie.